fossi qui, povera me, sarei una cosa morta, una candela spenta, una donna inutile. Potresti tu, se tu non fossi qui, potrei trovare un altro, questo lo so, sarebbe un triste cambio e so che dal dolore dovrei nascondermi. Potrei trovare un altro, questo lo so. Sarebbe un triste cambio, e so che dal dolore dovrei qui accanto a me.